Oggi è primavera, che voglia d'amare, anche la colomba ho sentito tubare, sotto la grondaia v'è già un pigolare, ma l'amor mio non c'è. Una letterina le voglio inviare, 100.000 baci mi deve mandare, ma il mio desiderio non vuole aspettare e canta insieme a me. Vola stornello, vola, ricama di notte il cielo, metti ogni mia parola, nel sol scrivi un ritornello. A confessarmi sono stato perché sono tante notti che smanio per te, il mio buon curato m'ha detto cos'è, è tempo di sposar. Prendi il primo treno ma corri da me, anche se il corredo finito non è, già le nostre nozze ho fissato perché non posso più aspettare. Oh, la storia vola, ricama di notte il cielo, metti ogni mia parola, nel sol scrivi un ritornello, presto sorpassa il cuore. La campana per noi suonerà, stornello volare.